Capitolo 9 di Mattinate Napoletane. Questa registrazione LibriVox appartiene al dominio pubblico. Registrato da Davide Lequile. Mattinate Napoletane di Salvatore Di Giacomo. Capitolo 9. L'impazzito per l'acqua. 26 maggio. Ieri un acquafrescaio del vicolo Marconiglio è stato spedito all'ospedale dei Matti. Era un giovane pallido, un po' grasso, muto e pensoso. Altri da di volta per mancanza di denaro, per fede politica, per ambizione. Costui è impazzito per l'acqua di Serino, così dicono quelli della sua famiglia, in cui la professione di venditori d'acqua è atavistica. Ma il vicinato dico che no. Dice che Peppino Battimelli è ammattito per amore. Peppino Battimelli aveva la sua banca in un cantuccio in penombra nel vicolo Marconiglio. Sotto un balconcello della balaustra di colonnine di legno, una balaustra a petto di colombo, come se ne vedono spesso nei quartieri bassi di Napoli. Tra le colonnine barocche, in maggio, le rose d'una capera fanno capolino qua e là, e l'edera selvaggia s'attorciglia al legno antico. Un merlo impertinente ripete, senza mai stancarsi, il suo ritornello chiaro e vivace, da una gabbia che rimane anche la notte attaccata ad un chiodo fuori al balconcello. Di sotto c'era la banca Battimelli, niente di più primitivo della pittorica decorazione di questa banca. Sulla faccia di mezzo una larga via, una signora ed un signore a braccetto, con alle calcagne un cagnolino. Alberelli in fila a destra e a manca, cielo di verderame carico, sulla faccia a sinistra una fontana pubblica tra cespi di fiori strani, un ragazzetto che si manda innanzi il cerchio e, in fondo, un palazzo rosso con le finestre verdi. Sulla faccia a destra il mare. Un pescatore accoccolato sopra uno scoglio ha preso all'amo un pesce più grande di lui e lo tira su con la lenza. In fondo il Vesuvio in eruzione. È giorno, ma il pittore se n'è scordato e ha fatto scendere per le falde del monte la lava rossa. Alcune bianche vele s'allontanano per il mare. Tutto ciò per i monellucci del vicolo Marconiglio era stupendo. Nella controra afosa, tre o quattro di loro, non avendo a far altro, si mettevano in contemplazione dei dipinti della banca, inginocchiati come innanti ad un'immagine di Santa Lucia benedetta. Peppino Battimelli, in camicia azzurra, rimboccate le maniche fino ai gomiti, sognava in una gran seggiola alta che lo faceva troneggiare sulla banca, sui limoni in fila, sulla fila riverberante delle giarre di vetro sottile capacissime. Un alito di fuoco passava nel vicoletto al tramonto. Le pietre sconnesse del selciato ardevano, ma la luce in questo vicolo Marconiglio stretto e scuro, anche nell'estate, è mite. Sul cadere del sole, mentre la gente si sveglia dal torpore della giornata, il vicolo si rianima di moto e di voci. La capera s'affaccia, sbadigliando, al suo balconcello e corona per poco la balaustra delle bianche braccia nude, tornite e lisce. Rimane un poco a guardare nella viuzza, chiacchiera con una sua comare e torna in camera per riuscirne dopo un pezzetto, con un secchio in mano. Innaffia le rose e si china ad aspirarne il profumo. Quando c'era di sotto Peppino Battimelli, la capera lo salutava, picchiando col secchio di latta sulla balaustra. «Peppì, buonasera!» Lui rispondeva con gli occhi levati. Ah, buonasera. Sentì che è caldo e infame. Sì, Peppì, il sole da quando è testa. Si cade all'acqua, dici a me che mi dispiace. No, signore, l'acqua non cade. Perché mi dispiace a ria, Peppì. No, signore. La capera sospirava e rientrava, lentamente. Impossibile commuovere questo acquaiolo malinconico. Nella stanzetta che già andava accogliendo dolci penombre, lo specchio luceva in un cantuccio. La capera ha dovuto spesso mirarvisi. Ancora i capelli neri erano copiosi e belli. Ancora, tra la fangia diffusa, gli occhi neri splendevano. Ancora la bella bocca era rosea. Che importava la sua vedovanza? A volte meglio una vedova che una zitella. Ma Peppino non ne voleva sapere. Che peccato. Verso le 5 o le 6 della sera le comari del vico scopavano le case. Qualcuno si pigliava briga di rinfrescare il selciato arso, buttando acqua qua e là. Il selciato si macchiava di tante chiazze nere, onde saliva un tanfo di polvere cacciata via dall'acqua. La viuzza faceva toletta. Ma dopo, aspettando che vi arrivassero da tutte le altre vie del quartiere gli operai dal lavoro, le femmine dalla fabbrica dei tabacchi, le rivettatrici dalle botteghe dei calzolai, i cenciaiuoli ambulanti con la gerla piena di stracci e di cappelli vecchi, la viuzza taceva, presa da quella malinconica pace delle stradicciole napoletane, ove ogni casa nasconde e cova un dolore. Peppino Battimelli continuava a meditare. Tempo fa capitò nel vico la mamma, una vecchia, chiese conto a tutto il vicinato di quello che il figlio di lei, Peppino, facesse, stando a vendere l'acqua. Rispose ognuno: «Che volete che faccia? Vende l'acqua!» «Dicite ma verità!» insisteva la vecchia. «Ma che è stata?» Allora quella raccontò che il figlio aveva dato di volta. Non si sapeva perché, non aveva voluto mangiare, non bere. S'era spogliato nudo e voleva precipitarsi dal balcone, un balcone al quinto piano, al vico fico. Nemmeno l'ossa si sarebbero trovate. «Ma vita appurata perché è impazzuta?» «Gioia mia, per l'acqua d'Oserina!» «L'acqua nostra, non sveve più!» «Che simma arrivata, come fosse velena!» A casa, seguitò la vecchia, Peppino nominava sempre l'acqua di Serino. Un'ingiunzione municipale che ordinava agli acquafrescai di non vendere acqua che non sia di Serino aveva colpito per lui giorni addietro. Il giovanotto se c'era fissato. Domenica scorsa, bestemmiando Gesù, lui che non ha mai bestemmiato, in un impeto frenetico ha afferrato un coltello e si voleva ammazzare. Poi ha strappato la gran chiave all'uscio di casa e si è dato in capo e si è ferito. Il medico ha detto che è pazzo, ma guarirà. La vecchia piangeva, tutte le comari si sono intenerite e anche alla capera dal suo balconcello pieno di rose. Intorno alla vecchia si era radunata gran gente. Quando la madre Peppino se n'è andata, i commenti duravano ancora. «Voi vedete la fantasia e l'omma a dove sbattere?» ha esclamato una rossa in camicetta bianca. E ho visto la capera che rispondeva dal balconcello col secchietto in mano. «Quando uno sta sullo sbarca, quando è insurrato pensa a mogliera. Chi te una belli denara sempre conta, e chi te una bella mogliera sempre canta.» «È ovvera», ha detto la rossa. «Ma Peppino tenevo o non tenevo corombietta?» «E che saccia!» ha esclamato la capera ridendo. La rossa, che ha intorno una nidiata di marmocchi, ha levate le braccia, gridando a tutti i maschi del vicolo: «Uomana, uomana, anzurratavana!» Il mistico matto era dimenticato. Le femmine gridavano con la rossa alle braccia tese: «Anzurratava, anzurratava!» E sopra le soglie dei bassi, nelle botteghe, nella via, gli uomini ridevano, contentissimi, e ridevano pure le femmine incitanti, e negli sguardi accesi degli uni e degli altri desiderio luceva. Era, in quest'ora, ancor tutto caldo di sole il vicoletto. Il diavolo del terzo peccato alitava sulle facce sudate, passando improvvisamente tra quello scoppio di miserevole brutalità. Fine del capitolo 9, registrato da Davide Lequile.